tante parti e province siete adunate. Che di molte parti e province siete adunate. Audite poverelle dal signor avvocate, vivate sempre in veritate e in obbedienza moriate. Vivate sempre in veritate e in obbedienza moriate. Non guardate alla vita fora, quella dello spirito è migliore. Vi prego per grande amore che in povertà viviate. Quel che sono di infermità gravate e l'altre che sono faticate, ciascuna lo sostenga in pace che sia in cielo coronata. Audite poverelle dal signor avvocate, che de molte parti e province siete adunate. Che de molte parti e province siete adunate. Audite poverelle dal signor avvocate, vivate sempre in veritate e in obbedienza moriate. Vivate sempre in veritate e in obbedienza moriate. Non guardate alla vita fuori, quella dello spirito è migliore. Vi prego per grande amore che in povertà viviate. Quel che sono di infermità gravate e l'altre che sono fatigate, ciascuna lo sostenga in pace e sera in cielo coronata. Ciascuna lo sostenga in pace e sera in cielo coronata.